31 gennaio del 2024 inizia prove tecniche di trasmissione, adesso sino alle 22.30 circa. www.ondarossa.info, il nostro sito internet dove si possono trovare peraltro anche le modalità di adesione per quanto riguarda la nostra sottoscrizione, la nostra vita. Questa sera avremo qualche problema forse di comunicazione rispetto alla consueta chat per un mio consueto account che al momento non c'è, e quindi cercherò di ovviare con quello di riserva, ma potrà magari andare a inficiare rispetto alla comunicazione o a qualche link, vedremo un po'. Importante che siate all'ascolto e che si possa sentire soprattutto della buona musica. Comincio a salutare comunque Nicola Locci in Sardegna, Antonio Zoviec di Omicidio, Maglie in Umbria. Abbiamo a Taranto Doriana Panico, Tiziano Zero Farinacci di Pigreco, Anna qui a Roma. Marco Milanesio di Disordine e non solo. L'avremo anche questa sera con un suo album. Venusia Sozietta Stramonio, fedelissima. A Cortina d'Ampezzo, Tabula Rasa. Un saluto a Mariano. Un saluto anche ad Ernesti Panico Brusati. E noi si va ad iniziare e lo facciamo con andarci ad ascoltare altri due passaggi riguardante l'ultimo lavoro di Lupsi. Si chiama Blood and Stars e quindi ci inoltreremo nelle consuete atmosfere oniriche e dilatate, un po' tra krautrock e psichedelia e naturalmente post rock. Ci ascoltiamo Sounds, Roots e The Sars. Thank you. E dunque abbiamo iniziato con Lupsi, con Lucia Cagliazza che vado a salutare. Blood Stars è ultimo suo lavoro, che naturalmente vede anche l'ausilio dal punto di vista tecnico di Raffaele Pezzella, che a breve chiameremo in causa. Sagace l'affermazione di Antonio Zovet sul fatto che questi suoni possono farci andare e far correre la fantasia verso, per esempio, i film di Mario Bava, e allo stesso tempo ci fa immergere nel kraut rock più oscuro e visionario. Saluto intanto Sara Boia a Berlino. Stefano Romani, che vedo e noto con piacere che si è ricollegato anche dopo Disorder, Artificial Heaven, una nuova realtà gothic rock da apprezzare. E dunque Antonio ha accennato Mario Bava, e rimanendo nel campo, diciamo, della letteratura, molti di voi conosceranno Howard Phillips Lovecraft. Ebbene, il buon Raffaele Pezzella 2 anni fa ha tributato, e non è la prima volta, un omaggio appunto a questo scrittore. Nyarlathotep, Tribute to Howard Phillips Lovecraft, una compilation che in realtà uscì nel 1997, tramite una etichetta portoghese, la Cadat, e Raffaele Pezzella l'ha recuperata e ce l'ha fatta conoscere attraverso il profilo Bandcamp del Late Tower Records, una delle tante affiliate alla Nesplay Sounds Group. Allora, questa sera 3 tracce. I noti Killian Camera, che peraltro saranno qui a Roma il prossimo sabato, con Die Okofen des Schmerzes, una versione tramite organo. Poi ci sarà Tombstone con Ritual Affliction e In Articulo Mortis, The Perfect Solitude of the Wolf. loro abbiamo fatto la conoscenza con Nyarlathotep, Tribute to Howard Phillips Lovecraft, con i primi tre episodi di questa compilation uscita nel 2022 tramite la 8 Tower Records. Anche qui un po' a metà tra Viaggi nel cosmo, atmosfera alla Coil, come sta andando sotto la mia voce con questo artista. E appunto in articolo Mortis, The Perfect Solitude of the Wolf, ancora da Nyarlathotep. Dunque, tre efficacissimi esempi di cosiddetto orrore cosmico, questo tributo a Howard Phillips Lovecraft, apprezzato, vedo, da Giulia Vassena. Intanto saluto lei e Wurnus Island e Marco Mascia di Progetto Sonoro, dalla Sardegna anche lui. All'oceano, senza la brividire all'idea. Questo è Gerstein, che ci ascolteremo la prossima settimana. I tre tributi appartenevano a Killian Camera, Tombstone e Articulo Mortis. 8 episodi, 8 diciamo omaggi a questo grande scrittore. Album che però ha anche un profilo, un afflato, un intendimento cinematografico, se vogliamo. Caratteristiche ancora più forti in un lavoro del 2023 dei Laibach, particolarmente attivi lo scorso anno. Iron Sky, The Coming Race, fondamentalmente la seconda parte di Iron Sky, un film che credo in Italia non sia mai uscito e al quale i Laibach hanno applicato la loro perizia e valore sonoro ed artistico. Una lunghissima colonna sonora con tantissime tracce, noi ce ne ascolteremo moltissime, facendo felici i più, ritengo. Le tracce sono molto brevi e sono Total Sequence, Nomina Moon Base, Walkur Lens, The Arrival of Russian Refugees, Inspects the Spaceship Cone, eccetera eccetera, arrivando fino a The Jobsist. Insomma, ci ascolteremo 8-9 estratti molto brevi da questo The Iron Sky, The Coming Race per i Laibach. Dell'oceano salirà la luce in un cataclisma cosmico. Avete sbagliato emittente, sono sempre i Laibach, ma d'altronde le colonne sonore sono particolari. Questa è un, diciamo, è una delle poche eccezioni, ed è proprio la title track, The Coming Grace. Ero un po' indecisa e indeciso nel metterla. Questo è il boccione di lui, inconfondibile. Just a plague. E Giulia Vassena mi dice che entrambi i film sono usciti in Italia, ma io ammetto un po' di disinteresse verso l'universo cinema, e questa è mia gaffe, lo dimostra altamente. And let's make Earth great again. Intanto è entrato 25 o'clock, che quindi andrà in onda tra circa un'oretta. Eccoli Laibach, decisamente più riconoscibili, molto epico-sinfonici come potrete apprezzare da queste brevi estratti. Thank you. Molti minuti passati insieme ai Laibach, impeccabile il loro contributo sonoro per I Know Sky, The Coming Race, The Original Soundtrack. I Laibach danno il meglio di sé attraverso la loro arte così epico-sinfonica, marziale, assolutamente riconoscibile tra mille. Progetto sloveno in attività dal 1980, ricordiamo, sarà in tournée in Italia ad aprile, Bologna e Ravenna, e anche lì ci sarà un contributo al servizio dell'opera di Bertolt Brecht, dove sembrerebbe che i Laibach, oltre a suonare, sembra che possano anche recitare in questa rappresentazione teatrale. Staremo un po' a vedere se poi è vero tutto ciò. La cosa sicura è che The Coming Race, Aaron Sky, ci terrà a compagnia per molte molte settimane, data la vastità dell'opera e il valore dell'opera stessa. E rimanendo nel campo della multimedialità, da una colonna sonora di un film, andiamo invece a un contributo musicale nella dimensione teatrale ad opera di Disordine di Marco Milanesio. Questa è musica per teatro, uscita in origine nel 1989, che andava a commentare due piste teatrali, Marassade e Red. E proprio di Red ci andremo ad ascoltare Distanza di pensiero e Passo a passo. We'll be right back. il pathos drammatico, le austere soluzioni sonore, l'intensità di questa colonna sonora per questa pista teatrale Red, distanze di pensiero e passo a passo. Pensate che intensità stare a teatro e oltre che godersi un presumibile interessante spettacolo, pensate a questa colonna sonora come può portarci in un vero e proprio abisso, in un vortice emotivo. Il tutto grazie a Marco Milanesio e i suoi Disordine. In maniera provvidenziale un recupero del lontano 1989, questa musica per teatro. Ed ora alle 21.52 una vera e propria sferzata elettronica, approfittando di Heracleitos, ultima fatica di teatro satanico. E questa sera due remix di Thanatos, remixato da Violet Pison e poi Peer, in questa versione, in una versione di Slaughter Brain.